Linee d'ombra di Matteo Caccia. Sì, io la chiamo folgorazione perché è stata proprio una cosa prima e dopo, no? Quello che poi è successo è stata la passione, no? Quel ragazzo di 17 anni, con la terza media, oggi è uno psicologo psicoterapeuta con un dottorato di ricerca in psicologia. Storie di folgorazioni culturali e di dipendenza in una puntata che si intitola Tutto su Freud. Signori! Età dell'innocenza si chiama, perché si crede che il bambino non possegga alcuna consapevolezza sessuale. Questa erronea opinione riflette il senso di paura e di colpa della società. Nell'infanzia egli è un vorace animale intento a riempirsi lo stomaco. Il latte caldo gli scorre nella bocca, gli dà piacere. Un piacere che egli cerca di prolungare anche quando la sua fame è soddisfatta, così succhia i capezzoli di gomma o il suo stesso pollice. La soddisfazione che ne ottiene sensibilizza le regioni della bocca e delle labbra, che così divengono delle zone erogene, che nell'età adulta danno piacere durante il bacio. Il bambino fa il bagno, viene asciugato e carezzato dalla madre. Tutto il corpo risponde alle sue tenere cure. Il suo desiderio per le sue mammelle gradualmente si estende sino al desiderio per la stessa madre. E la madre diviene il primo oggetto del desiderio amoroso del bambino. Poi egli scopre di non essere solo, d'avere un rivale, il padre. È un giovane Freud che racconta il complesso di Edipo, quello che vi abbiamo appena fatto sentire. È un estratto di un film di diversi anni fa ed è un estratto di un film che vi facciamo sentire per un motivo molto molto semplice, ed è che il protagonista della prima storia, l'autore della prima storia, lo cita come momento di vero passaggio della sua vita. Si intitola Freud Secret Passions, le passioni segrete di Sigmund Freud, ed è un film di John Huston, è un film di moltissimi anni fa, e lo sentirete dalla sua storia. Non voglio raccontarvelo prima perché questo film è stato così importante per lui, perché davvero noi raccontiamo storie che hanno un passaggio, hanno una linea di confine, e la storia che vi racconteremo tra pochissimo, la storia del nostro ascoltatore, di Claudio, ci racconta quanto definita sia stata per lui, quanto marcata sia stata per lui quella linea di confine, quel passaggio che ha a che fare proprio con questo film. Parleremo quindi di Freud in una puntata che si intitola Tutto su Freud, e devo dire che quando si pensa a Freud, quando si parla di Freud, a me non riesce a non venire in mente uno dei miei film preferiti di Nanni Moretti, che si intitola Sogni d'oro, in cui la storia che si racconta è la sua, è quella di Michela Picella, che è il, diciamo, il nickname, l'alter ego di Nanni Moretti per i suoi primi film, che fa regista e gira un film su Freud, che è interpretato da un meraviglioso Remo Remotti. Per chi non lo conoscesse, Remo Remotti, andate a cercarvelo, è stato uno degli attori che ha portato la romanità del secondo dopoguerra, l'ha portata sul grande schermo, l'ha portata in televisione e l'ha portata anche nel mondo della musica, con una poesia indimenticabile, che è diventata anche un pezzo musicale musicato da alcuni rapper, che si chiama Mamma Roma, che è una lunga lettera di addio alla sua città, appunto a Roma. Insomma, Remo Remotti interpreta Sigmund Freud, e c'è una scena straordinaria in cui lui entra a casa sua e nella sua casa, dove c'è anche lo studio, ed entra in casa la mamma, che è una persona molto anziana, perché è un Freud già anziano, quello che racconta Nanni Moretti in Sogni d'oro, e lui si apposta dietro la porta e la spaventa come se fosse un bambino, e la mamma si lamenta, dice ma perché non sei cresciuto, perché non sei come il figlio della nostra vicina di casa che è un ingegnere, una persona per bene. Lui dice ma mamma, ma cosa dici, io sono Freud, io sono un genio, mammina mammina, la bacia, e poi dice mamma no, ti odio, ti uccido, ho il complesso di Edipo. Insomma, è un film delirante, Remo Remotti è straordinario, e questa scena è magnifica. Mi viene sempre in mente questa scena quando si parla di Freud, ma non vi racconteremo di questa scena, ve l'ho già raccontata. Soprattutto vi racconteremo come un film che racconta di Freud possa cambiare letteralmente veramente la vita di una persona, perché in quella sera, in una sera particolare della sua vita, a un certo punto incontra sullo schermo della televisione la figura di Sigmund Freud. Vi racconteremo questo e molto altro e chiuderemo con la nostra storia seriale, come sempre. Quindi voi mettetevi comodi, noi cominciamo a raccontare. Benvenuti a Linea d'Ombra. Avevo 17 anni, dopo un diploma di scuola media preso con un 6 politico, ero una frana, e un'interruzione delle scuole superiori a causa di una frode amministrativa in una scuola finta parificata, ci fecero fare degli esami che non avevano alcun valore legale, io ero ormai destinato a rimanere svogliatamente nel negozio di famiglia. Era tutto deciso. Avrei proseguito nel lavoro di commerciante di abiti. Ricordo che era una sera come le altre. Io sedevo accanto a mia madre a vedere la TV. Finii per vedere un film che cambiò per sempre e in modo radicale la mia vita. Montgomery Clift era lo straordinario attore che incarnava quello che sarebbe divenuto il mio faro illuminante, Sigmund Freud. Il film in questione era Freud, Secret Passions di John Huston. Intanto l'attore principale che interpretava Freud era questo Montgomery Clift, che è particolarmente adatto per fare quella parte proprio di Freud, con questo sguardo magnetico, un po' sofferente perché lui ha avuto un incidente in quel periodo, quindi interpreterà proprio la parte di Freud molto bene. Mi ha colpito soprattutto le scene, quelle sull'isteria, sulle pazienti isteriche che lui col metodo ipnotico e poi il metodo catartico faceva praticamente rimettere in piedi, perché erano tutte affette da paralisi isteriche e cose di questo tipo. Le pazienti isteriche che vincevano le loro paralisi e si rialzavano, questa era una delle scene plastiche che mi ricordo ebbe su di me un impatto straordinario, così come gli scenari onirici nella pellicola quando Freud interpretava i sogni. Antoine è il nome in francese di mio padre, Antonio, che lui scelse per l'insegna del negozio. In quegli anni andavano di moda nomi francesi, me lo disse poi, negli anni a seguire. Proprio a fianco del negozio c'era una libreria con una vetrina fatta a forma di galleria circolare, dove il cliente poteva vedere tutti i libri esposti senza entrare in negozio. All'indomani della visione di quel film, girando distrattamente in questa galleria, i libri non erano la mia passione, fino ad allora ne avevo letti non più di un paio, scorsi in un angolo un libro di Erich Fromm, noto per Avere o Essere e per L'arte di amare. Il titolo del libro però era Grandezze e limiti del pensiero di Sigmund Freud. Riconobbi subito il personaggio del film della sera precedente e decisi di acquistarlo. Lo lessi e da lì in poi non mi sono mai più fermato. Nel giardino di Psiche, in sembianze di Dio, mi parlava l'inconscio, ma tanto a rispondere non ero mai io, no, non ero mai. Tutta colpa di Freud, nei suoi sordidi inganni, se le cose fra noi sono sempre le stesse da anni. E poi è colpa sua se non ti so dimenticare, degli incontri imprevisti, delle scelte sbagliate, dei dolori pregressi, dei peccati commessi una sera d'estate, delle mille promesse mancate. La colpa sarà di chi le avrà ascoltate. Sapere se la donna che voglio non la posso nemmeno volere. È strano, sai, ti stupirei mostrandoti le mie ossessioni e la balla dei sogni, ma ne vogliamo parlare. La verità è che i sogni sono immagini riflesse, sono specchio d'acqua immobile, svaniscono provandoli a toccare. Era colpa di Freud. vita e l'ho lanciata alla conquista, come colpa di Dante se resterò in silenzio intanto che accompagna allegramente la mia anima all'inferno, la mia anima all'inferno, la mia anima, la mia anima all'inferno. La vita cambia in un attimo. Per me non è un modo di dire. Fui folgorato dalla lettura di quel libro e nei mesi a seguire iniziai a leggere i libri economici della Newton Compton Editori sulle opere di Freud. All'epoca avevo la terza media e 17 anni, ma decisi di tornare a scuola serale. Mio padre mi disse che per pagarla avrei dovuto lavorare al negozio e io accettai. Nel giro di un paio d'anni passai dal 4 fisso ai temi di italiano di terza media al 9 al tema di maturità, in cui discutevo dello scambio di lettere fra Freud ed Einstein sul perché la guerra. Studiavo all'epoca ragioneria, ma a casa, dopo la partita doppia, continuavo a mangiarmi i libri di Freud. Non ero all'epoca consapevole, ma già avevo deciso che avrei preso psicologia all'università. E così è stato. A seguire, la laurea. Il dottorato di ricerca all'Università di Bologna con una borsa vinta da esterno, perché vivevo a Roma. Già diciamo all'ultimo anno di ragioneria, in realtà io mettevo i libri da una parte, studiavo Freud e leggevo Freud, e già avevo deciso di prendere psicologia, e poi da lì insomma ho preso la laurea in psicologia, poi il dottorato a Bologna, sempre in psicologia, e ho fatto il mio percorso, ecco. Quel ragazzo di 17 anni con la terza media oggi è uno psicologo psicoterapeuta con un dottorato di ricerca in psicologia, che ha pubblicato diversi articoli scientifici e libri all'estero e riconosciuto a livello internazionale come esperto dei processi onirici. Quella sera la mia vita è cambiata. Il film e poi il libro su Freud sono stati per me come una chiamata. Ancora oggi, quando rivedo quel film, mi emoziono come un bambino. Aggiungo un dettaglio importante che potrebbe essere la chiave per comprendere fino in fondo quello che mi accadde quella sera. Mia madre sedeva accanto a me. Lei all'età di 22 anni aveva avuto una forma non meglio diagnosticata, eravamo alla fine degli anni 50, di distrofia muscolare, che pur lasciandola autonoma nei suoi movimenti le comportava un rapido affaticamento se doveva camminare molto e fare le scale. Quella sera sognai di salvare mia madre. Sognai che le sue difficoltà potessero essere solo di origine isterica e che forse un giorno l'avrei potuta guarire. Un sogno di cui non ho avuto mai consapevolezza, se non quando ero ormai adulto, che tuttavia cambiò la mia vita per sempre. Siamo lanciati anche nel titolo della puntata in qualcosa di psicoterapeutico, psicologico, non saprei come definirlo, visto che il titolo è tutto su Freud, e avrete capito perché, ma soprattutto avrete capito che quando noi abbiamo chiesto di raccontarci delle storie che hanno un confine o una linea d'ombra nel mezzo, immaginavamo sì delle storie in cui il protagonista passava da uno stato all'altro oppure si trasformava magari nel tempo, ma ammetto che non immaginavamo mai di poter ricevere una storia così precisa su una linea d'ombra. Pronto? Ciao Claudio, buongiorno. Ciao, buongiorno Matteo. Senti, perché quella linea d'ombra lì è stata veramente evidente, quel passaggio è stato nettissimo, quella sera, quel film, quel libro. Sì, è proprio così, cioè è stata proprio una sera in cui casualmente, vedendo la televisione insieme a mia madre, capitò questo film che poi fece una grandissima impressione su di me. Claudio, scusami, tu dici, e me lo raccontava anche Anita per la precisione che ha chiacchierato con te prima di questa telefonata, che tu a 17 anni avevi solo la terza media perché la scuola che frequentavi non era parificata, ti ha creato dei problemi. Assolutamente sì, ci facevano fare gli esami a fine anno, ma in realtà questi esami non avevano nessun valore, perché poi scoprimmo che questa scuola non era parificata, partirono anche delle denunce così, e praticamente mi ritrovai dopo, al terzo anno di studi delle superiori, mi ritrovai a dover fare gli esami da privatista in una scuola poi statale, dove venni regolarmente bocciato e quindi mi ritrovai di fatto con la terza media a 17 anni. Senti, e oggi cosa fai nella vita esattamente, Claudio? Oggi io faccio lo psicologo nella ASL, precisamente nella ASL di lavoro a Civita Castellana, e lavoro nel servizio per le dipendenze patologiche e nell'ambulatorio di psicologia dell'adulto. Quindi mi occupo un po' di dipendenze, alcolismo, tossicodipendenza, e poi mi occupo di disturbi, diciamo, quelli che fanno per la maggiore in questi tempi, disturbi d'ansia, depressione, anche certo. Lutti e cose di questo tipo qui. Senti, quindi davvero la tua storia è una storia esemplare per chiunque si trovi in una condizione di giovane età, con la sensazione che non sai cosa fare della tua vita, gli studi vanno così, cioè se si trova, non è facile avere la fortuna di incontrare i propri gusti e i propri desideri in una sera davanti alla TV guardando un film, oppure in una libreria che è accanto al negozio dei propri genitori, però mi sembra un bello sprone a provare a cercarli i propri gusti, a capire che cosa ci piace, la tua storia, trovi? Assolutamente. Più che altro trovare il prima possibile la propria passione e seguirla fino in fondo, questo, perché di questo si tratta. Io sono stato, diciamo, molto fortunato, perché è stato veramente un click che si è acceso nella mia testa, che fino all'epoca non mi piaceva studiavo, non leggevo, insomma. Certo. E invece mi sono poi iscritto a scuola, ho recuperato gli anni. È tutto con molta forza, molto sprint, come posso dire. Sì, con molto entusiasmo, si legge. Senti, Claudio, se tu non avessi visto quel film di John Huston quella sera, che cosa pensi che faresti oggi nella tua vita? Ma chi lo sa, forse sarei finito per fare ugualmente lo psicologo, perché comunque... Okay. Cioè l'avresti incontrato sì, in qualche altro modo nella tua strada, dici? In qualche altro modo, perché ricordo che prima, cioè quando ero piccolino, dicevo sempre a mia madre che avrei voluto fare l'archeologo, che è molto, per certi versi, è molto affine anche alla psicologia, alla psicoterapia, perché si tratta comunque sempre di scavare nel profondo, ecco. Certo. Senti, l'ultima cosa, e poi davvero non ti rubo più tempo. Se ci fosse qualcuno là fuori adesso, magari giovane, magari che non sa che cosa fare ed è incuriosito dalla psicologia, tu se dovessi scegliere un libro da consigliare, che cosa consiglieresti per conoscere il tuo lavoro e quello che potrebbe diventare il loro lavoro? Ma su questo non ho dubbi, credo che L'interpretazione dei sogni sia un libro veramente esemplare da questo punto di vista, come introduzione proprio alla psicologia. Ok. E allora, scusami, allora l'ultima cosa su Freud, sì, davvero, che è la domanda delle domande, cioè è una domanda veramente da 100 milioni di euro, però te la faccio lo stesso. Per quale motivo Sigmund Freud ancora oggi è un gigante? Credo che il motivo sia per il fatto che è l'unico, secondo me, ancora oggi ad aver delineato un modello globale della mente umana, cioè un modello completo, assolutamente completo in tutti i vari aspetti della mente umana, dai sogni all'arte, ha spiegato un po' tutto in un sistema coerente. E non ci sono certo, insomma, che descrive. Non ci sono quali, cioè ci sono varie teorie più specifiche, su più settori più specifici anche del comportamento, però come teoria globale secondo me ancora oggi, cioè quella mappa che ha creato lui rimane un riferimento assoluto, secondo me sì. Okay. Assolutamente. Claudio, ti ringrazio davvero tanto per la storia, per la chiacchierata e per tutte le cose che ci hai detto. Io spero sempre, appunto, io lo dico sempre, noi facciamo intrattenimento attraverso le storie, però spero che ogni tanto magari le storie che ci arrivano, le esperienze di vita come la tua o come quelle che raccontiamo, possono magari servire anche a qualcosa di più rispetto al puro intrattenimento. Grazie ancora Claudio, in bocca al lupo per tutto e buona estate. Ti ringrazio a te, grazie, è stata una buona esperienza, grazie. A presto. Ciao, ciao. Grazie. Ciao, ciao, ciao. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven a touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing left to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Grazie mille a Claudio per averci raccontato questa storia che per noi è stata davvero esemplare. Quando parliamo di linee d'ombra, parliamo di confini e parliamo di passaggi di stato, spesso ci immaginiamo una condizione che magari non percepiamo nemmeno, no? Cioè di condizioni per le quali dopo mesi, dopo anni o dopo qualche giorno ci ritroviamo diversi senza essercene accorti. Ecco, Claudio invece ha fotografato perfettamente quella linea di passaggio. Era una sera, è stato un film e il giorno dopo è stato un libro. Grazie a lui per la sua storia e grazie a lui per averci raccontata così bene. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linea d'Ombra. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linea d'Ombra. Secondo diversi biografi, Emma Eckstein, verso la fine dell'Ottocento, andò in visita da Sigmund Freud, lamentando dolori di stomaco e sbalzi d'umore legati al ciclo mestruale. Freud le diagnosticò isteria ed eccesso di masturbazione. Come terapia, le propose una speciale cauterizzazione del naso con la cocaina. Chiamò Fleiss, un collega otorinolaringoiatra, che come lui credeva che il naso fosse collegato ai genitali e che operare su di esso potesse placare problemi sessuali, come quello di Emma. La cocaina all'epoca era legale e talvolta usata come anestetico locale. I due infilarono grammo dopo grammo di pura cocaina nelle narici di Emma, bruciandole i seni nasali. Dopo l'operazione l'hanno bendata e salutata, convinti di averle reso un ottimo servizio. Ma due settimane dopo, Emma tornò a fare visita a Sigmund, afflitta da una terribile epistassi. In una puntata che si intitola Tutto su Freud, la seconda storia di oggi è questa. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Nei giorni seguenti Emma tornò da Freud con emorragie al naso sempre più copiose. La metà del suo viso era letteralmente crollato. Freud le diede molta morfina e le riapplicò le bende, provando un enorme senso di colpa per la sua negligenza. In cerca di sollievo dallo stress, Freud cominciò a sua volta ad assumere i sigari in grande quantità e cocaina. Per il giovane Freud la cocaina era una droga miracolosa. Prima di sviluppare la psicanalisi e le teorie per le quali ora è famoso, Freud era di fatto drogato di cocaina. Come dimostrano le sue vivaci lettere d'amore alla sua fidanzata Martha Bernays, ha usato la cocaina per piacere e sollievo, per rilassarsi e concentrarsi. Lo portava alle feste glamour a Parigi, lo usava per curare le sue malattie e le irritazioni nasali. Lo prescrisse ai suoi pazienti, ad amici e a Martha stessa. Ci scrisse ampiamente e tentò persino di usarla come trampolino di lancio per la fama medica. Quando il lato oscuro della cocaina però cominciò ad emergere, dopo oltre un decennio di utilizzo della droga, Freud prese a calci la sua abitudine e fece tutto il possibile per cancellare tutto quello che aveva detto pubblicamente in precedenza sull'uso di cocaina. Mentre gli esseri umani masticavano foglie di coca da migliaia di anni, all'epoca di Freud il cloridrato di cocaina sintetizzato esisteva da circa 25 anni. Nel 1884 Freud lesse un articolo su un soldato tedesco che era crollato per sfinimento e dopo aver ingoiato della cocaina si era alzato ed era tornato a camminare facilmente e allegramente, aveva dichiarato. Alla ricerca della sua grande svolta in medicina, Freud decide di testare il farmaco su se stesso e di riferirne i risultati. Ordinò quindi un grammo di cocaina pura e ne ingoiò un ventesimo. Dopo il suo primo esperimento, Freud riferì: «Il lavoro fisico-mentale intenso viene eseguito senza fatica», scriveva. «Questo risultato è goduto senza gli spiacevoli postumi che seguono l'esaltazione provocata dall'alcol. Si sente un aumento dell'autocontrollo e ci si sente più vigorosi e più capaci di lavorare». Ignaro delle proprietà di dipendenza di questa sostanza, Freud la prescrisse a un suo amico e insegnante. Il suo amico era un drogato di morfina e Freud pensava che la cocaina potesse curare quella sua dipendenza. Il suo insegnante rimpiazzò temporaneamente la sua dipendenza da morfina con una dipendenza da cocaina e non mostrò alcun sintomo di astinenza da morfina. Dopo 5 settimane di consumo, però, scrisse il primo di 4 articoli che avrebbe pubblicato sulla droga. Il tono della scrittura di Freud riflette la sua infatuazione per questa sostanza. Dopodiché tenne conferenze sugli usi della cocaina e continuò a prescriverla ai suoi pazienti. Nel 1899 Freud completò la sua opera più famosa, L'interpretazione dei sogni. Può risultare un'affermazione forzata, ma se pensiamo, come fa Freud, che tutti i nostri bisogni sono soddisfazioni dei desideri o tentativi inconsci di risolvere i nostri conflitti, il libro è il diario dei sogni di un tossicodipendente. Il libro è pieno di cocaina. Dei 39 sogni personali di cui parla, solo 17 sono narrazioni completamente sviluppate e di questi 17, 8 riguardano proprio la cocaina. Poco dopo Freud quasi uccise Emma Eckstein riempendole il naso di coca. Ma quando poi le prove contro la cocaina divennero irrefutabili, Freud smise con la droga e distrusse le lettere e i documenti in cui ne sosteneva il consumo. Ma anche dopo aver smesso, Freud continuò a chiedere ai pazienti di rispondergli come se fossero sotto effetto di cocaina. E più di un biografo ha continuato a ritenere che la cocaina abbia parzialmente ispirato la famosa tecnica della libera associazione, in cui i pazienti esprimevano i loro pensieri incondizionati attraverso un flusso di coscienza. Come on, baby, dress in white. Hey baby, won't you stay the night? Cocaine all around my brain. Come on, baby, dressed in red. Hey baby, won't you come to bed? Cocaine all around my brain. Hey baby, won't you please skunk lady. This old cocaine's making me sick, cocaine all around my brain. Come my baby dressed in blue, hey baby, what can I do? Cocaine all around my brain. Come my baby dressed in green, hey baby, can you see? Cocaine all around my brain. Hey baby, won't you please come quick? This old cocaine's making me sick. Cocaine all around my brain. Questo angolo di vita di Sigmund Freud, questo pezzo di vita che riguarda Sigmund Freud e riguarda l'uso di questa sostanza che probabilmente appunto all'epoca non era conosciuta così dannosa come è conosciuta oggi, infatti non appena l'ha scoperto ha immediatamente smesso di farne uso. L'abbiamo trovata su Narratively, che è uno dei magazine in cui che consultiamo più avidamente, in cui troviamo un sacco di storie laterali che ci raccontano qualcosa di più di luoghi, persone, di personaggi e di situazioni, ed è per questo motivo che ve le proponiamo appena possiamo. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linea d'Ombra. Vi dai online e ci guadagni online. Sfatiamo questo mito, si guadagna con il sito. Aziende o negozianti, gli affari sono tanti. Italia online e ci guadagni online. Il tuo sito non era online, adesso hai Italia online. L'e-commerce era un tabù, ma se lo fai vendi di più. Creiamo il tuo e-commerce, guadagni subito e paghi tra 3 mesi. Vai su italiaonline.it. Linee d'ombra. Lo dicevo già nella puntata di ieri che nella storia seriale che vi stiamo raccontando, che è la storia di Antonino Azzotti, o meglio di Nicola Azzotti, suo padre che viene ucciso dalla mafia con 5 colpi di pistola alla schiena quando lei ha solo 4 anni, perché ha cercato di aiutare degli agricoltori, ha cercato di essere equo nella distribuzione delle terre. Siamo nel 1946, la Sicilia è in mano a latifondisti e quindi è di fatto l'humus da cui nasce quella che oggi è la congrega mafiosa, la famiglia mafiosa. Lui viene ucciso, è uno dei primi delitti di mafia del dopoguerra, e lei si trova, Antonina si trova sola con il fratello Pinuccio e la mamma. Ed è una vita di stenti, lo stiamo raccontando in questi giorni. Mi viene in mente quello che mi raccontava mia nonna quando io ero un bambino e parlavamo di animali. Io volevo un cane come tutti i bambini, oppure un gatto, e per mia nonna gli animali erano... animali, insomma, non saprei come altro definirlo, proprio perché lei era cresciuta in campagna ed era solita avere a che fare con le bestie, così come le bestie erano trattate un tempo, cioè non come componenti della famiglia, non venivano umanizzati come succede spesso ad esempio oggi con i cani o con i gatti, e gli animali erano veramente una fonte di sostentamento, cioè una famiglia intera viveva sulle spalle di un animale. Ed ecco, Antonina in questo episodio ci racconta esattamente questo, ci racconta dell'affetto per la scrofa che vive con loro, letteralmente vive in casa con loro, ma ci racconta anche della totale dipendenza da questo animale, come la sua famiglia, cioè lui, il fratello e la madre, dipendono al punto da questa scrofa, da questo animale e dai suoi parti e dai suoi cuccioli, che la devono accudire, la devono curare come, non come un essere umano, ma come un tesoro preziosissimo. E questo ci racconta non solo di quello che è accaduto a causa della mafia, ma ci racconta di come è cresciuta questa giovanissima donna. L'economia quotidiana era basata sul baratto, ma per le spese più grosse contavamo sul lieto evento di Catarì, la nostra scrofa. A lei si dedicavano attenzioni e cure quasi fosse un membro della famiglia. Il rapporto tra di noi era fondato sulla necessità. Avevamo paura di perderla. Quando si ammalava io ero molto preoccupata. Non la lasciavo sola né giorno né notte, e quando Catarì si metteva in piedi e riprendeva a mangiare, anche una sola foglia di lattuga o mezza pala di fichi d'India era una gioia enorme. Quando la scrofa doveva figliare, mamma l'assisteva amorevolmente. Quando succedeva di notte, stavamo lì sveglie, lei e io con lei a farle compagnia. Lei non voleva, ma io insistevo sia per stare accanto a lei e sia anche perché volevo vivere quell'evento, che è un evento veramente molto, molto bello. E così ho assistito tante volte a partorire della nostra Caterina e quindi ad affezionarmi ancora di più a quei maialini che io carezzavo, che io sostentavo, perché anche col biberon sono ricorsa al biberon per nutrire anche i più piccoli. Il più delle volte era mio compito portarla fuori. Io tentavo di affrontarlo come un gioco. Dovevo darle il tempo di sgranchirsi e muoversi, ma senza farmi vedere dalla guardia municipale. Nella primissima adolescenza, poi, l'uscita in campagna con Catarì era una mortificazione indicibile per me, e inutile era lo sforzo di dare a questa incombenza un sapore ludico. Di solito aspettavo l'ora di pranzo, la più propizia per non correre il rischio di essere vista da nessuno. Non eravamo gli unici in paese ad avere una scrofa, ma per gli altri serviva per arrotondare l'economia familiare, per noi invece era vitale. Era il nostro unico sostegno ed era una faccenda tremendamente seria. Ogni volta che Catarì era particolarmente irrequieta, correva, si fermava, annusava e cercava. Significava che era pronta per l'accoppiamento. Senza indugi correvamo da Zupiddu e con lui si concordava il giorno e l'ora più convenienti. Era il suo verro che fecondava le numerose scrofe allevate in paese. Se Catarì diventava gravida, anch'io, come la mamma, seguivo speranzosa l'ingrossarsi della sua pancia. Gliela palpavo cercando di sapere in anticipo quanti porcellini avrebbe partorito. Potevamo così prevedere gli introiti e fare un po' di calcoli. La gestazione di una scrofa è lunga 3 mesi e 3 settimane. Scaduto dalle termine, quindi il parto poteva avvenire da un momento all'altro. Generalmente il parto avveniva di notte. Uno dopo l'altro, a intervalli regolari, i batuffoli rosa, carnosi e morbidi venivano fuori accompagnato da liberatori grufolii della scrofa. Mia madre li accoglieva prendendoli per le zampe posteriori, sollevandoli a testa in giù e battendo qualche colpetto sulla loro schiena, proprio come fa un'ostetrica con i bambini appena nati. Poi li adagiava in un cesto già predisposto, rivestito di paglia e cenci di lana. A ogni nuovo nato, una nuova conta. Quando la pancia della scrofa non dava segni di altre presenze, il parto era concluso. Dopo l'ultimo nato facevamo l'ennesima verifica nella speranza di avere commesso un errore per difetto. 40 giorni dopo la nascita, i porcellini da latte avevano raggiunto lo sviluppo massimo. Quello era il tempo giusto per la vendita. Ritardarla implicava la necessità di integrare la dieta con prodotti appropriati, che non potevamo permetterci. Eppure, Mauro, mai. Io non capivo che ci poteva essere un'altra realtà diversa, molto diversa. Cioè, la mia vita era quella, la nostra realtà era quella. Noi mai, bambini, mai ci siamo ribellati a niente. Se qualcosa mamma poteva, bene, eravamo felici, felici di qualcosa che di impensato poteva arrivare, che poteva essere, che ne so io, un nodino di salsiccia per la festa di Santa Fortunata, che è la patrona del paese, e quello ci rendeva felici perché non eravamo certo abituati a mangiare mai la salsiccia. Ma se una volta all'anno, due volte all'anno, questa arrivava, nodino, non di più, noi eravamo felici, sia io che mio fratello. La mamma gioiva della nostra gioia, anche lei, per dirti la nostra vita difficilissima, semplicissima, meno che essenziale. Control. nostra storia seriale continua anche domani. Vi ricordo che potete ascoltarla, se avete voglia, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24, in uno speciale che va in onda appunto in quella serata per mezz'ora, che riassume tutte e cinque gli episodi della nostra storia seriale. Altrimenti andate online sul nostro sito radio24.it, alla pagina di Linea d'Ombra, e trovate tutti i podcast, trovate anche solo i podcast della nostra storia seriale. Grazie ad Antonina Zotti, grazie all'archivio dei diari che ci permette di consultare e di trovare le loro storie. Grazie a Mauro Pescio, a Luca Micheli, ad Anita Panizza e a Paolo Corleoni. Noi torniamo puntualissimi domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!